In questo prolungato tempo pasquale continuiamo a rispecchiarci negli Atti degli Apostoli e a imparare dal comportamento della Chiesa che non ha più Gesù, ma che deve seguire Gesù con la forza dello Spirito Santo, come dobbiamo comportarci noi. Oggi ci viene proposto ancora Stefano e viene presentato in questo capitolo 7, versetto 55 degli Atti, pieno di Spirito Santo. E che cosa fa Stefano pieno di Spirito Santo? Porta avanti la sua testimonianza su Gesù risorto. Non ha paura di testimoniare, anche se questo poi lo porta a essere ucciso. Ma io ero colpito di tutto il personaggio di Stefano, che è molto ricco, dalle ultime parole. Signore, non imputare loro questo peccato. E è il perfetto discepolo di Gesù, perché ha lo stesso atteggiamento di Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io, tenendo nel mio cuore questi due esempi, l'esempio di Stefano e l'esempio di Gesù, riesco un pochino a superare la fatica del perdono. Guardate, amici, che il perdonare credo sia la cosa più difficile al mondo. Tant'è vero che molta gente, quando tu glielo prospetti, lo rifiuta. E quando magari il sacerdote ha il coraggio di dire: ma Gesù ha perdonato, ah, ma io non sono Gesù. E allora lo suggerisco a me stesso e lo suggerisco a voi, poiché anche noi, onestamente, non perdoniamo bene. Perdoniamo magari in qualche maniera e poi resta sempre dentro un fondo di scarto nel nostro cuore. E anche quando riteniamo di perdonare, alcune volte perdoniamo a muso duro, senza sorridere, perdoniamo con dei sottintesi, com'è difficile proprio perdonare col cuore. Allora chiediamo la preghiera di Stefano, invochiamo il sangue di Gesù su di noi perché purifichino il nostro cuore dalla incapacità di perdonare. Io poi ve lo ripeto, magari stancandovi, ma è importantissimo. Il demonio non se ne vada un'anima finché non si concede il perdono pieno. Un'anima può essere quasi santa, può essere generosissima, ma se non perdona, concede a Satana un gancio, magari un unico gancio. Per tutto il resto è un'anima perfetta. Ma siccome Satana ha una potenza straordinaria, è come una locomotiva potentissima che con quest'unico gancio è capace di trascinare un treno lunghissimo. Provate a pensare, un treno lunghissimo, pesante, pieno di passeggeri, di merci, se trova la locomotiva giusta e se c'è un gancio solo, viene trascinato. Stiamo attenti, amici. Se noi non perdoniamo di vero cuore, se non perdoniamo con queste parole di Stefano, non imputare loro questo peccato, se non perdoniamo con le parole di Gesù, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, saremo sempre ostaggi del diavolo.